GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Flextronics verso la cessione del ramo italiano e dello stabilimento triestino. I sindacati chiedono la mobilitazione, regione dura con la proprietà. Diploma in 4 anni alle superiori, si amplia l'elenco degli istituti regionali in visita alle scuole che offriranno il nuovo percorso. Ruba un'auto e viene arrestato dopo un movimentato inseguimento a Udine, protagonista un giovane ucraino. Il nuovo codice della strada, un super corso per i professionisti a Pordenone. La grande nevicata del 1985 e i mutamenti del clima raccontati da una specialista che li studia. Bike sharing, successo a Udine, in 2 settimane 700 iscritti al nuovo servizio istituito dal comune. Le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. In apertura la cronaca sindacale, l'avvertenza Flex sommata alle tante in corso a Trieste rende sempre più necessario un percorso di mobilitazione in difesa dei posti di lavoro che non possiamo permetterci di continuare a perdere. Lo scrivono i sindacati FIM, FIOM e WILM di Trieste insieme con la RSU aziendali in riferimento all'avvertenza dell'azienda di elettronica che mette a rischio 350 posti di lavoro. Sulla vicenda ieri si era espressa la regione con un duro comunicato. Nonostante l'iniziale disponibilità a valutazioni più approfondite, Flextronic tira dritto verso la firma della cessione del 100% delle quote della società italiana con sede a Trieste al fondo tedesco Faircap, indipendentemente dalle richieste delle istituzioni e delle parti sociali. Un comportamento, quello di Flextronic, che gli assessori regionali alle attività produttive Sergio Emilio Bini e al lavoro Alessia Rosolin definiscono incompatibili con quel principio di responsabilità sociale che dovrebbe orientare i comportamenti delle imprese nei confronti delle lavoratrici, dei lavoratori, delle parti sociali, delle istituzioni e in generale del territorio e dell'intera comunità. Ad aprire la crisi era stata la perdita del committente principale del sito di Trieste, la Nokia. Dopo aver assicurato di non voler procedere ad azioni unilaterali, Flextronic aveva presentato al tavolo governativo il soggetto individuato come possibile acquirente del sito. Un soggetto che non aveva tuttavia fornito elementi che garantissero l'attività produttiva e la salvaguardia dei livelli occupazionali, 350 dipendenti circa, preannunciando esuberi strutturali da gestire con gli strumenti di legge. Abbiamo condiviso con tutte le istituzioni e le parti sociali, hanno informato Vini e Rosolin, la richiesta di valutare altri orientamenti che potessero garantire una continuità industriale al sito. La corporate si è inizialmente dimostrata disponibile a valutazioni più approfondite, salvo poi comunicare per le vie brevi che la cessione era di fatto già stata perfezionata. E preoccupazione hanno manifestato anche FIOM, FIM e WILM di Trieste. Se il gruppo dirigente della Flex pensa che appaltando i licenziamenti se ne toglie la responsabilità, dichiarano, si sbaglia e deve essere fermato subito. In raccordo con il governo e le parti sociali, assicurano gli esponenti della giunta regionale, saranno messi a disposizione delle aziende tutti gli strumenti atti a favorire l'individuazione di soluzioni che tutelino il tessuto industriale giuliano e i relativi livelli occupazionali. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Scuola si infoltisce l'elenco degli istituti superiori che metteranno in pratica il cosiddetto 4 più 2, quindi con un percorso ridotto per il diploma. Siamo andati a visitarne alcuni in provincia di Udine. Una scuola più pratica, collegata con il mondo del lavoro ma anche dell'università. Il percorso cosiddetto 4 più 2 prende sempre più forma a tantissime le scuole che hanno scelto di offrirlo a partire dal prossimo anno scolastico. La commissione ministeriale ha appena autorizzato 396 istituti in Italia, più 120% rispetto allo scorso anno. In Friuli Venezia Giulia sono 10 le scuole, ciascuna delle quali offre più indirizzi. Complessivamente se ne contano 14 e vanno dall'informatica alla tecnica agraria, dalla meccanica ai trasporti. Noi abbiamo visitato l'ISIS Bassa Friulana di Cervignano, la preside Maria Elisabetta Giannuzzi ci spiega cosa significa per questi ragazzi fare la scuola in 4 anni, passando da 33 ore settimanali a 36 o 37 e poter conseguire direttamente con altri 2 anni di studio di ITS o andare anche all'università un diploma successivo. Cosa ha in più questo percorso cosiddetto fatto in filiera? C'è la possibilità di vivere il mondo del lavoro, di vivere esperienze innovative usufruendo di laboratori all'avanguardia che vengono messi a disposizione dagli ITS, di fare lezione con esperti provenienti dal mondo del lavoro, di comprendere meglio i propri talenti e di avere più consapevolezza delle proprie capacità. Si può andare all'estero già dalla fine del primo anno addirittura, cioè? È possibile fare esperienza di alternanza scuola-lavoro all'estero. Nel nostro istituto abbiamo pensato di adoperare i fondi che ci sono concessi dall'Unione Europea, i fondi Erasmus, proprio per studiare, per comprendere come avviene la scuola e come si lavora e quali sono le richieste che l'Europa fa ai suoi giovani. Cervignano dei Friuli, Anna Vitaliani, TGR, Friuli Venezia Giulia. Cronaca, un 27enne ucraino senza fissa dimora è stato arrestato a Udine dalla Polizia di Stato dopo un rocambolesco inseguimento in auto attraverso le vie cittadine. L'uomo si era impossessato di una vettura lasciata dal proprietario in via Versa con le chiavi nel cruscotto. Rintracciata l'auto grazie ai lettori di targa, gli agenti della Volante l'hanno intercettata in piazzale Cella e inseguita a sirene spiegate anche contromano in via Volturno fino a via Valussi, dove il ladro ha perso il controllo ed è finito contro il marciapiede davanti al palazzo della regione. Il giovane ha cercato di fuggire a piedi ma è stato presto bloccato. Addosso aveva documenti intestati a diverse persone, probabile provento di furti di portafogli. Il giudice per le indagini preliminari ne ha già convalidato l'arresto. A Pordenone si è tenuto questa mattina il convegno di formazione professionale Il Codice fa strada, dedicato a forze dell'ordine e docenti di autoscuole e incentrato sulla recente riforma. Tra i focus dell'evento, tematiche quali la sospensione della patente e la ZTL. Sul fronte della guida in stato di ebbrezza cambiano le sanzioni. Il nuovo codice della strada introduce novità importanti invece sull'utilizzo dei monopattini, sull'uso del cellulare alla guida, ma anche sulla sospensione breve della patente. Tolleranza zero per chi utilizza lo smartphone alla guida. Le nuove norme prevedono un inasprimento delle sanzioni. La multa può andare da 250 a 1000 euro e la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. Alla seconda violazione commessa nell'arco del biennio l'importo cresce ancora in un range compreso tra 350 e 1400 euro. Le recenti modifiche vietano l'uso del cellulare alla guida anche durante le soste temporanee, come quelle al semaforo. Per quanto riguarda l'alcol, se il tasso è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi, si ha una sanzione tra 573 e 2170 euro, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso alcolemico è tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si è puniti con una doppia sanzione detentiva e pecuniaria, oltre alla sospensione della patente da 6 mesi ad un anno. Ma a doversi districare per primi tra le novità del codice per poi applicarle sono le forze dell'ordine che operano sulla strada. A Pordenone è l'unica tappa regionale del convegno dedicato. Maurizio Zorzetto, comandante polizia locale Friuli Occidentale. Ha visto aumentare le sanzioni nell'ultimo mese, cioè da quando è stato introdotto il nuovo codice della strada? In realtà mi viene da dire no, nel senso che questo clima un po' di paura, no? Delle nuove regole ha innescato un bellissimo effetto, che è quello di una maggiore attenzione e una maggior prudenza. Almeno mi piace leggerla così. Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. 5 lavoratori in nero sono emersi nel corso di controlli dei finanzieri di Pordenone tra le attività commerciali presenti alla recente rassegna Extracon alla fiera. In particolare 4 addetti erano impegnati in uno stand di gastronomia giapponese e uno a un banco di vendita di componenti elettroniche. Ai 2 datori di lavoro è stata inflitta una sanzione compresa tra i 2.000 e i 12.000 euro per ogni addetto. Il primo rischia anche la sospensione dell'attività. Le Fiamme Gialle hanno contestato durante l'evento anche la mancata emissione di scontrini e fatture. A Monfalcone i carabinieri e la polizia locale hanno svolto una serie di controlli mirati su una 15ina di appartamenti che ospitano stranieri, rilevando che 23 persone non ci vivono più e di altre 5 non è stata denunciata la presenza all'anagrafe. Trattandosi di presenze non occasionali, come rilevano i carabinieri in un comunicato, sono state sanzionate per 100 euro ciascuna. Più salate le sanzioni, pari a 1000 euro, per i proprietari che ospitavano stranieri senza averlo comunicato alle autorità, come invece è prescritto. In questi giorni si ricorda l'ormai mitica nevicata di 40 anni fa che imbiancò l'Italia e in regione determinò forti disagi. Cos'è successo dal 1985 a oggi? Lo abbiamo chiesto a una climatologa dell'Istituto Internazionale di Fisica Teorica questa mattina. Buongiorno Regione. Sono passati 40 anni da quella nevicata straordinaria del gennaio 1985 che durò 3 giorni consecutivi e imbiancò tutta Italia. Paesi e città cambiarono colore, anche sulla costa. Tutto diventò più complicato e a un tempo più divertente. Una bora gelida spazzava Trieste, nonostante tanti disagi, ma per i bambini fu una gioia inaspettata. Da oltre 10 anni la neve non scende più sulle nostre pianure e coste, eppure gli scienziati dicono che quella nevicata del secolo potrebbe ricapitare ancora. Erika Coppola, ricercatrice dell'ICTP di Trieste. Sono delle condizioni, diciamo, legate alla variabilità naturale del clima. Può succedere un anno sì, un anno no, due sì, due no. Però la differenza fondamentale è che in quel periodo noi vivevamo in un mondo che si è riscaldato solo di 0,2 gradi. Invece oggi viviamo in un mondo che si è riscaldato di almeno 1,15 gradi con degli anni come quest'anno che si è appena concluso in cui abbiamo raggiunto addirittura l'1,5 gradi. Continuiamo a usare i carburanti fossili, le emissioni di anidride carbonica aumentano, la terra si scalda sempre più e così anche in montagna la neve è più scarsa. Abbiamo un trend osservato di almeno un 5% per decade in meno in tutte, diciamo, l'arco alpino, in particolare nella regione del nord-est. E questo, se noi pensiamo di continuare con un'emissione come quella di oggi, arriverà fino a 70% in meno alle quote al di sotto dei 1000 metri e 20-30% in meno al di sopra dei 2000 metri. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. 12:41, passiamo al meteo. Il cielo è coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11 a Trieste 8 gradi, a Gorizia 7 gradi e mezzo, a Udine e Pordenone 6, in area montana Tolmezzo e Tarvisio 4 gradi e 5 decimi, Forni di Sopra 2 gradi e 5 decimi, a Piancavallo 0, a Sappada 1 grado e mezzo sotto lo 0, in quota sul Monte Lussari meno 2 gradi e mezzo e sul Monte Zoncolan meno 3, sulla costa grado 6 gradi e mezzo, a Lignano 6. E queste le previsioni a cura dell'ARPA per oggi pomeriggio e in serata: cielo coperto con foschie e nebbie e si avranno le prime deboli piogge sparse. Domani cielo coperto con piogge deboli a ovest, moderate a est. Prenderà avvio dalle vicende di connazionali all'estero come Cecilia Sala in Iran e Alberto Trentini in Venezuela l'incontro intitolato Politica Estera e Diritti Umani. All'evento organizzato dall'Associazione Dialoghi Europei parteciperà Roberto Antonione, presidente uscente del Forum di Cooperazione e Iniziativa Centro Europea INCE, oltre al presidente del Centro Studi Politica Internazionale CESPI, Daniele Frigeri. Appuntamento a Trieste, al Circolo della Stampa, in Corso Italia, alle 17:30. Altro relatore è Michele Nicoletti, coordinatore dell'Osservatorio Diritti Umani del CESPI e docente all'Università di Trento, a cui abbiamo chiesto una sintesi del suo intervento su politica estera e diritti umani. Questo tema ci costringe a ripensare gli strumenti che noi abbiamo per costruire delle politiche estere non solo rispettose dei diritti umani, ma basate sul valore fondamentale della vita umana, perché per secoli le politiche estere sono state politiche estere tra gli stati che consideravano le persone semplicemente degli strumenti delle loro politiche. Invece dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti, la costruzione dell'ONU e delle altre organizzazioni, convenzioni internazionali, lo sforzo molto faticoso e molto contraddittorio è stato quello di costruire una politica estera a partire dal rispetto dei diritti delle persone. L'Italia in questo è stata una protagonista coerente, perché ha fatto, diciamo, la sua parte per rafforzare le organizzazioni internazionali, le convenzioni internazionali, con alcune battaglie anche in sede internazionale, penso alla moratoria sulla pena di morte, per citare forse quella più nota. Su altri fronti è stata forse meno limpida, meno capace di mettere al primo posto i diritti umani anche rispetto a degli interessi economici o interessi strategici. E infine c'è il problema appunto della dotarsi anche di strumenti per vedere se questi diritti umani sono rispettati non solo nella nostra politica estera, ma anche nei confronti di quelle persone che vengono dall'estero verso il nostro paese e che non sempre noi trattiamo con il rispetto dovuto. Pensiamo al grande tema appunto dei rifugiati. Alcuni partner storici dell'Università di Udine, provenienti da Camerun ed Etiopia, collaboreranno con l'Ateneo Friulano nel progetto internazionale Unit Africa, finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca con quasi 2 milioni e mezzo di euro nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'iniziativa intende potenziare la formazione, la ricerca e la cooperazione con le università africane per migliorare l'istruzione superiore dei loro istituti. Al progetto biennale partecipano 21 atenei italiani e 93 università africane di 18 paesi, di cui 10 tra quelli meno sviluppati. Le aree progettuali coinvolte includono lo sviluppo rurale, la salute, l'energia sostenibile, la transizione ecologica e digitale, lo sviluppo imprenditoriale e industriale, il patrimonio culturale, le scienze sociali e umane. Il programma coinvolgerà docenti e studenti di entrambi i versanti, anche con la creazione di corsi avanzati, e sarà coordinato dall'Università di Brescia. Focus dell'iniziativa: la creazione di una piattaforma condivisa per l'insegnamento innovativo e la mobilità. La Giunta Comunale di Trieste ha approvato la delibera con la quale si consente l'avvio delle procedure per l'organizzazione di un trasporto dedicato straordinario a favore degli alunni della scuola primaria San Giusto di Via Trissino, le cui classi sono state spostate nella scuola Biagio Marin, Rione di Servola, in seguito al cedimento degli intonaci e dunque per consentire i lavori di messa in sicurezza che si protrarranno per alcuni mesi. Sono stati inoltre stabiliti i criteri per l'erogazione del contributo all'Istituto Comprensivo di riferimento per l'attivazione del pre e post accoglimento richiesto dalla scuola e dalle famiglie che non fruiranno del trasporto dedicato. Il bike sharing decolla a Udine. In 2 settimane dall'avvio del servizio sono già state registrate 700 iscrizioni e oltre 200 persone hanno già cominciato a usufruirne. Si crea un profilo sull'applicazione, la si apre, si sceglie la bicicletta da noleggiare, si scansiona il QR code, il mezzo si sblocca e si è pronti a partire. Da 2 settimane a Udine sono praticamente ovunque le bici grigio-arancioni del nuovo servizio di bike sharing in sostituzione di quello precedente a rastrelliera fissa. Tradizionali o a pedalata assistita, dotate di geolocalizzazione e bloccaggio automatico. Nei 150.000 euro del costo del servizio è inclusa la pulizia, la manutenzione e il ricollocamento. Più di 500 le corse finora, i 700 iscritti, 220 dei quali hanno iniziato a usare il servizio, sembrano preferire l'elettrico. Il 59% delle volte hanno optato per la pedalata assistita. 14 minuti e poco più di 1,5 km il tragitto medio, soprattutto in centro, ma si iniziano a vedere i primi utilizzi in periferia, anche grazie al modello di noleggio a flusso libero. È un nuovo sistema, un sistema misto, afferma l'assessore alla viabilità Ivano Marchiol. Dentro il ring urbano abbiamo 50 stazioni fisse in cui recuperare le bici, che oggi sono già 230, in primavera saranno 380. Una volta erano solo 24 le stazioni, ma fuori dal ring urbano, nei quartieri, aggiunge, c'è il flusso libero. Posso andare esattamente in bici dove voglio e parcheggiarla dove voglio. E quindi si tratta di un trasporto pubblico personalizzato, conclude. Con la bella stagione i numeri andranno sicuramente in crescita. Qualche critica invece dall'opposizione, che presenterà un'interrogazione sulla scelta estetica della segnaletica orizzontale gialla anche in punti storici della città e sull'assenza di rastrelliere classiche. A detta del consigliere Loris Michelini, predecessore di Marchiol, eviterebbero posizionamenti impropri ed eccessivo disordine. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. La pagina della cultura: domani sera a Roma, al Parco della Musica, il Concerto della Memoria organizzato dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, un evento nazionale che avrà come protagonista l'orchestra Abimà, formazione triestina diretta da Davide Casali, con la partecipazione del flautista Roberto Fabriciani. Il concerto, in collaborazione con il Festival Victor Ullmann, sarà accompagnato dalla lettura di brevi brani tratti dalle testimonianze sulla vita e l'arte musicale. L'orchestra Abimà esegue da anni partiture di compositori ebrei e non considerati degenerati. Con questo organico sono stati registrati vari CD e l'orchestra si è esibita in tutto il Friuli Venezia Giulia sotto la guida di Davide Casali. Il Festival Victor Ullmann, nato nel 2014 a Trieste su iniziativa dell'Associazione Musica Libera, promuove la conoscenza dei numerosi compositori che furono perseguitati dal regime nazifascista per la loro origine ebraica e le loro convinzioni politiche, culturali e artistiche. I comuni di Palmanova, nelle vesti di capofila, Gorizia e Gradisca di Sonzo hanno presentato il progetto La meccanica delle fortezze, percorso divulgativo composto da 12 brevi video narrativi che raccontano l'evoluzione delle tecniche di costruzione delle fortificazioni dal Medioevo al Rinascimento per mezzo delle opere presenti nelle tre città, distanti tra loro non più di 20 minuti e dunque visitabili mantenendo lo stesso filo conduttore. Gli approfondimenti, raggiungibili anche attraverso QR code e cartelloni, contano anche su mappe trilingue, illustrazioni originali e informazioni storiche. La sinergia sottolineata dagli amministratori durante la presentazione a Gorizia ha già prodotto anche una serie di visite guidate. Le prossime si terranno il 16 febbraio, il 16 marzo e il 27 aprile. 2 anni fa ci lasciava Pino Roveredo, scrittore e autore teatrale triestino, i cui testi, da Capriola in salita, Ballando con Cecilia, da Cara creatura alla Melodia del corvo, hanno lasciato una traccia ardente nel panorama letterario italiano. Gli amici del Teatro Miela lo ricordano con 4 giornate di appuntamenti, il primo oggi alle 20:30, una serata inclusiva di lettura partecipata e testimonianze. Gli spettacoli con il cinema è stato girato quasi interamente in regione, il film è scelto dalla Slovenia per concorrere all'Oscar per miglior film straniero. Si intitola Terapia familiare ed è in concorso al Trieste Film Festival, nel cui ambito sarà proiettato stasera a Rossetti. La pellicola racconta con dosato umorismo le fobie di una ricca famiglia di oggi, impermeabili alla solidarietà. Nelle scene iniziali un'automobile con il motore in fiamme e una macchina di lusso che la supera lentamente senza fermarsi a dare soccorso. Ascoltiamo la regista Sonia Prosens in un estratto dell'intervista realizzata da Walter Scherk per la nostra rubrica Est Ovest. Il film nasce da un ricordo della mia infanzia, quando l'auto di famiglia si incendiò e tutte le persone che passavano ci guardavano, ci osservavano con insistenza, come se fossero ad un safari. Ho collegato questi miei ricordi di bambina alle dinamiche della società moderna, in cui le differenze di classe, ma anche la distanza fisica fra le persone di classi differenti, sono sempre più marcate. Un racconto che inizia come satira sociale per trasformarsi poi in una commedia nera, uno stratagemma narrativo con cui cerco di spiegare il comportamento di questa famiglia che ha bisogno di una terapia familiare. E a proposito di cinema, andiamo a scoprire la nuova sala polifunzionale di Pordenone che sarà usufruibile fra circa un mese. Sarà inaugurata a fine febbraio e, compatibilmente con gli ultimi lavori di finitura, anche aperta al pubblico la sala polifunzionale in piazza Maestri del Lavoro a Pordenone. Il quadro economico dell'intervento è di quasi 1.300.000 euro, di cui 835.000 da fondi PNRR. La gestione è stata affidata dal comune a Cinema Zero. A breve la consegna formale dei locali all'associazione, che si occuperà anche degli arredi e di rendere lo spazio funzionale. La dimensione trasparente dell'edificio, creata dagli architetti con le sue grandi vetrate, vuole dare l'idea di una piazza al coperto, spiega il designer di interni Alberto Caiola. L'interno sarà organizzato per essere polifunzionale, lo spazio è pensato per essere versatile e potrà trasformarsi a seconda delle esigenze in luogo per mostre, presentazioni anche con l'ausilio di schermi multimediali. Il padiglione potrà infatti ospitare eventi, incontri con gli autori, concerti e mostre promosse da Cinema Zero anche in collaborazione con altre associazioni del territorio e si aprirà in particolare a studenti e studentesse. La sala sarà infatti adibita ad aula studio con 70 posti a sedere e per almeno 2 giorni al mese sarà a disposizione delle scuole. Abbiamo pensato a uno spazio dove vivere la dimensione sociale del cinema in un modello che guarda al futuro e alle esperienze internazionali, dice il presidente dell'associazione Marco Fortunato. Sarà una sala che vivrà come centro culturale dove la comunità si incontra prima e dopo le proiezioni. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nella pagina dello sport parliamo di sci alpino e torniamo alla bella prova di ieri a Plan de Corones nella Coppa del Mondo Femminile per la Radella Mea, undicesima nello slalom gigante vinto dalla neozelandese Alice Robinson e migliore delle azzurre. Per la Tarvisiana è il miglior piazzamento in carriera in una specialità considerata non sua e ora un pensierino anche ai mondiali, potrebbe essere tra le convocate per Garmisch. Sentiamola al microfono di Simone Benzoni di Rai Sport. Sì, sicuramente mi piacerebbe tanto partecipare, poi si vedrà appunto le decisioni che prenderanno, però sono contenta comunque di come sto sciando in gigante perché mi sento veramente sicura e mi sto divertendo tanto. E intanto è arrivato il miglior piazzamento della carriera in Coppa del Mondo per te, che ricordiamolo hai quel bronzo del Team Event 2019. Sì, sono felicissima ancora, veramente, mi sono divertita tantissimo e sto trovando anche secondo me una buona continuità in questa disciplina. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Marco Ferrito e Samuel Montalto, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. 12:55, prossima edizione alle 15, grazie per la vostra attenzione, buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.